Eccolo! Sta arrivando! Ma che diavolo avete? Perché ridete tanto voi due, eh? So che non è gentile da parte nostra, ma non possiamo farne a meno. Sei un pagliaccio magnifico! Proprio così! Sembri uno che sta imparando a fare il clown in un circo. Se diventi bravo posso comprare un tendone. Mica male l'idea, eh? Pivellino, che ne dici? Ti stai prendendo gioco di me, eh? Dannazione, tutti mi prendono in giro, tutti! Io vivo in bilico sul mio palcoscenico. Panico, panico, questo è un caso clinico. Corri ragazzo laggiù, vola tra lampi di blu. Dimmelo tu se mi hanno fatto un rito putù. Sono un trottolino tutù, ta ta ta. Una sola nota che fa ratatatata sul pentatatatagramma. In equilibrio, mando baci da una bici senza manubrio. Altro che sobrio, barcollo in mille dubbi come Otello. Come quando il set è bello fa oh, mi è sembrato di vedere un coito. Mi agito come una bua nella marea. Eureka, eureka, ci vorrebbe un'idea. Un traguardo da tagliare tipo Pietro Mennea. Andare a troia come Nea. Dindale, dindalo, dindale, dindalo. Ancora in bilico sto. Mechini, mechini, nasa lucolo. Mechini, mechini, nasa lucolo. Dindale, dindalo, dindale, dindalo. Ancora in bilico sto. Mechini, mechini, nasa lucolo. Mechini, mechini, nasa lucolo. Qual è il motivo della tua condotta? Dov'è finito il tuo spirito combattivo? A metà tra campagna e città, tra ciò che mi succede e ciò che mi succederà. La mia identità oscilla come un pendolo. Non sono imprenditore né furtivendolo. Come mammolo romantico, come un medico razionale. Tra urinale e quirinale, male e bene insieme. Faccio l'amore ma la mia donna non geme. Un equilibrista con l'asta tra le mani. Muovo passi sulla fune sopra il mio domani. Con pensieri sacri e profani.